Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. Non un attimo passò nel cuore di Albert tra la vista del foglio recante il messaggio, con alcune rose ricamate, come allora usava, sul margine dentellato del foglio stesso, essendo tutto ciò di cui il duca disponeva nel suo secretaire per una lettera, cimelio della sua infanzia lontana e delle cure di mamma nella prossimità dei suoi natali. Non un attimo, dunque, passò e già la più terribile delle indignazioni devastava quel cuore candido. La povera Ferrantina di Carlo, come sappiamo, domestica tra le più anziane della casa, che ne aveva viste e sentite di ogni genere in 50 anni di servizio fedele e di orecchie particolarmente attente, raccontava ancora, 20 anni dopo, a una nipote che l'assisteva durante una malattia da cui fortunatamente guarì e ne raccoglieva ciecamente i deliziosi memoir per un gazzettiere francese incaricato di testimoniare dell'odio del popolo ai tempi della Repubblica per l'oppressione borbonica, raccontava che dalla montagna, tanto temuta e favoleggiata, nessuno in quell'occasione, dopo i tempi di Plinio, poteva aspettarsi di meglio. Vogliamo dire di peggio della valanga e furia e colata lavica di improperi che uscì dalla bocca di Bellerofonte davanti alla mala azione del suo amico. Collera, indignazione, disperazione per lo stato in cui vedeva ridotta la sua adorata e in più vergogna per il Belgio intero davanti al di lei padre. E pare si esprimesse, riferiva poi nelle sue pagine il disinvolto gazzettiere, così, piuttosto insensatamente. O si sentì mai di un demonio simile? Mia dolce Elmina, riprendetevi o ne morrò. Tu, Nodier, per l'anima mia, mi vedi e comprendi. Giudica dunque se un solo attimo io debba essere così aggredito dal migliore e più fedele degli amici, senza chiedermi se l'universo stesso non sia ribaltato e spezzato, e per disgrazia Satana stesso regni ormai al posto del nostro Signore Gesù. O Elmina mia, cuore innocente, riprenditi, rinvieni, o io non mi salverò. Certo che lo ucciderò, e subito. Madame Ferrantina, dei sali, per piacere. Mademoiselle Thérèse, Mademoiselle Louisette, dell'acqua. Tu, Nodier, prendi subito la mia spada, deve essere sul cassetto delle cravatte, in fondo all'armadio, e falla lucidare. Non penso neppure minimamente che ti rifiuterai di fare da padrino. Un altro lo troveremo. E il mascalzone dov'è, attualmente? Che sia ricercato e informato, un prete ci assista. Non siamo ancora sotto i giacobini, grazie al cielo. Pensate voi a tutto ciò, messie civile, questo lato penoso della vicenda vi compete. Intanto, Adelmin, riaprendo muta e bianca quegli occhi d'oro che avevano reso schiavo per sempre e dolorosamente l'artista, allungò a lui stancamente la fredda manina e, quasi appoggiandosi al di lui omero, debolmente disse: «Voi pazziate, Albert, mon ami», una delle poche espressioni francesi da lei usate durante il fidanzamento, «tu non sei in te. Quello, neppure l'amico vostro, ragiona». A questo punto Nodier, il grasso e beneamato provveditore alla pace e al benessere dei suoi amici di scapestrataggini, dalla prima gioventù in poi, ebbe la visione benedetta della salvezza. L'ancora offerta dal cielo o da amici spiriti fu vista e tosto afferrata dalle sue salde mani. E la navicella del matrimonio belga-napoletano con lui uscì dalle sabbie del nulla. Egli, atteggiando tutto il viso a una placidità infinita, e chi voleva poteva comprendere, non fosse stato di duro cuore, e anche a una divertita compassione, uscì in un «e così doveva finire, per una rabbia gelosa, una vera amicizia». La parola «gelosa» e anche quel compiaciuto rammarico che attribuiva la calunnia a una rabbia furono subito intesi e afferrati nel senso giusto da tutti i presenti, che vi si aggrapparono, compresa la smarrita figlia del guantaio. «E che volete dire con questo, messie Nodier?» il povero guantaio, che era entrato da poco, ma aveva compreso tutto. «Non volevo, esitavo, mi pareva terribile assai», così il mercante, torcendosi vistosamente le mani. «Ma ecco, vedo i frutti della mia prudenza». «Che vuoi dire, Nodier? Che cosa significa?» gridò lo stesso Dupré scattando in piedi. «Tu sapevi dunque qualcosa? La ragione di quest'odio ti era manifesta?» «Non odio, amore», disse Nodier rivolgendosi al guantaio, che se ne stava abbattuto e come spaventato accanto alla figlia. «Don Mariano, dovete perdonare alla signorina, non è colpa sua. Il nostro amico Neville, quello, ha perso la capa per vostra figlia, e ciò nonostante sia il migliore amico di tutti noi». «Volete dire, Nodier, che avrebbe sposato lui volentieri la mia Elmina, e che accuse tanto infamanti dipendono dal suo dolore? Volete dire questo?» «Esattamente», con aria grave disse Alphonse Nodier. «A parte ciò», intervenne una delle lavoranti, presente alla scena e che aveva sbirciato la lettera caduta a terra, «la signorina nostra non è una capra». L'osservazione passò sotto silenzio. «Amor mio», qui è Albert che parla, che aveva ritrovato una disperata calma, ponendosi di nuovo in ginocchio davanti alla dormese di raso giallo, dove Elmina si era semincosciente adagiata. «Amor mio, ti credo senz'altro, credo che il tuo cuore sia tutto mio, ma dimmi, Marraine, non gli è dato per caso qualche motivo di sperare quel suo orrendo regalo?» E alludeva al discusso e pur mirabile cestello. «Che voleva da te? Sperava forse?» A ciò la bella Elmina, la cui avversione per il principe abbiamo già illustrata e che tali domande quindi non potevano che esasperare e abbattere ulteriormente, ma di ciò l'incauto innamorato non poteva avvedersi, non rispondeva. Un rombo, come di uccelli in un bosco, come di cardigli arrabbiati, era nella sua testa. Le accuse, su quali fatti eventualmente poggiano le accuse di sua signoria?» andava dicendo qui come tra sé il misero padre. E scoppiò improvvisamente in singhiozzi, come non solo in quelle accuse egli non credesse che erano veritiere, ma anche come se di tutta la faccenda non gli ipotetici sentimenti colpevoli del principe lo colpissero, ma un di più dell'altro, un male reale della sua adorata figlia, che era stato solo sfiorato in quella tempesta e che egli non poteva, non doveva ad alcuno rivelare. Fu a questo punto che lo sventurato giovane amico di sua grazia tornò in mente quella esclamazione tanto afflitta e strana, uscita dalle labbra di Elmina alla vista del dispaccio. «O Vergine Santa e Madre Pietosa della Gabbietta, come pago in questo momento la mia durezza per il cardillo?» Coprendole le mani di baci, egli invocò una spiegazione. Questa venne senza quasi farsi aspettare e, sincera che fosse o dettata da qualche fanciullesco terrore del castigo, fu la seguente. Il vero cardillo della storia, anche se di un secondo cardillo forse Albert ricordava di aver sentito parlare in quella dolce sera di stelle e silenzio in cui si erano conosciuti, non era quello morto poche ore prima del loro arrivo per essere stato lasciato senza acqua nella vaschetta. Era un altro, ed era appartenuto a suo tempo a una sorella di Elmina e Teresa morta bambina, Dina o Dinuccia, detta anche Soricinella, una piccina disgraziatamente non bella, come egli poteva intuire dal soprannome, e ciò nonostante molto amata. Ma l'indole non era buona, dispiaceva a Elmina ricordarlo. Essa aveva due cose che le erano piuttosto care, come a tanti piccini non perfettamente a posto con la capa. Don Mariano dolorosamente assentì. Un quadretto della Madonna della Gabbietta, che si venera nella Cappella delle Grazie alla Vicaria e sotto la cui protezione Donna Brigitte l'aveva posta dalla nascita, vedendola così poco fortunata, e un uccelletto, un cardillo, del tutto uguale a quello che il giorno del loro arrivo era morto. E Bion? L'appassionato Albert, con gli occhi ardenti di speranza nell'innocenza e virtù assolute della sua amata. Ebbene, ella riprese a stento, ma con grande onesta fermezza. Con Nadina io ero severa. Questa la mia debolezza, anzi vera colpa, oggi credo. Papà se ne dispiaceva sempre, ma io la volevo guidare, volevo che crescesse buona e sincera. Non lo era, devo dire. E morì non più di 6 o 7 anni fa gettandosi dalla finestra della sua stanza perché aveva trovato morto il cardillo e di ciò lamentandosi poco prima con un servente che me lo riferì, Ferrantina può testimoniare, aveva accusato me che ero stata io a uccidere il cardillo. In tal modo assecondava maman che la idolatrava e al tempo stesso non aveva molta simpatia per me. Si gettò dalla finestra credendo, questa la sua innocenza, di resuscitare subito dopo. Doveva essere uno scherzo. Finì male. Mamma non me la perdonò davvero più. Questo, di nuovo profondendosi in lacrime, l'antefatto, caro Albert. Fui accusata di avere odiato il cardillo per pura malvagità. È così mia sorella. E che alla disperazione l'avevo spinta io, e maman per questo se ne andò di casa. Per fortuna papà non lo crede. Papà, rivolgendosi appassionatamente a Don Mariano, è vero che credete del mina vostra, che mia sorella Nadina disse la bugia? Sì, sì, faceva Don Mariano, spingendo il povero mento su e giù. E ti credo anch'io, amor mio, qui ridendo e piangendo, Albert. Tutto sommato, anzi, mi sembra una storia puerile, e non mi spiego l'invadenza di Neville, che cosa abbia capito e da chi sia stato influenzato per calunniarti tanto con un'allusione, mi pare chiara, gettando un'altra occhiata al foglio che era adesso su una sedia, a una storia di magie, di potenze contrarie all'anima. È veramente straordinario. Perché non conoscete la gente, interloquì con grande amarezza la sarta signora Olinda Benincasa, togliendosi 2 spilli di bocca. Ma Napoli, purtroppo, è fatta così. Ci tagliamo i panni addosso l'uno con l'altro, perché non pensiamo alle conseguenze, anzi, perché non pensiamo mai a niente. E soprattutto l'innocenza ne fa le spese. Con quasi eccessiva indignazione, una delle piccole lavoranti. Albert sospirò, tutto incantato. «Non mi avete detto, poi», disse amorosamente Alberta Delmina, porgendole le rose col ciuffetto di neve in cima, che qualcuno aveva con premura raccolto e deposto su un tavolino di marmo, «non mi avete detto se voi, Elmina adorata, siete davvero religiosa, se credete in Dio e nella Vergine Santa». «In Dio, nella Vergine e in tutti gli angeli del cielo», fu la spontanea, innocente risposta. «Mi è di gran sollievo questo, credetemi, E da che cosa altro vi lasciate guidare? Avete una qualche, perdonatemi, filosofia? La poverina non capì la parola, latina o francese che fosse, filosofia, ma prontamente e tristemente rispose: credo nello spirito del male. E ancora una volta, serio e grave, suo padre assentì, e le donne intorno fecero cenno di sì, che il male, tale spirito o maestà che sia, veramente esiste, e i segni del suo passaggio sono sotto gli occhi di tutti. E che sarebbe, in che consisterebbe, Marraine, questo esprit du mal? Chiese graziosamente, piegandosi un po' su quel volto amato, il giovane Albert, che già dimenticava il suo dolore e aspettava di sentirsi dire l'orgoglio, la menzogna, il tradimento, la calunnia, l'invidia, tutti i difetti del principe, gli stessi di cui la poverina era accusata, e invece ella rispose, rassegnata e calma. La felicità è male, Albert. Amare le creature è male. Solo Dio si deve amare, è il re. Il resto è peccato. Il re? E c'est donc le roi qui a fait les créatures, ma petite Elmina? Qui, intenerito, e con intensa e spiritosa grazia, quell'appassionato amante. Il re è Dio stesso? Vous aimez Ferdinand? E c'est bien cela que vous voulez me dire? Oui, monsieur Albert. Dio ha fatto le creature e il loro dolore. Le creature vivono nel dolore, e solo il dolore si deve amare, solo quelli perduti si devono servire. Anche sua maestà obbedisce, con una sorta di santa grandezza, disse la figlia del guantaio, ripetendo, come in un ritornello triste, non percepibile, in vero, dalle orecchie di tutti, tranne di uno, e non diremo per ora chi, solo la vita è male. Solo la gioia è male. Eppure lacrime di assenza, vorremmo dire di dissennatezza, pari almeno a quelle del suo innamorato belga, sì dicendo o farneticando, scorrevano sul viso della bella Elmina, tracciavano non so quale parola incomprensibile, oscura, su quell'anima radiosa di soli 16 anni, ma non oscurandola, bensì illuminandola, come l'aurora illumina talvolta, prima ancora di levarsi con un palpito rosa, gli oscuri giardini del mondo. Il Dupré non sentì e capì tutto il napoletano francese di lei, in alcuni momenti più che fanciullesco, ma il suo entusiasmo per la propria sposa, la sensazione fulminea che ella fosse semplicemente una delle poche anime sublimi che si posano a volte su questa terra, ancora tremanti per il precipitoso volo, lo scossero come un brivido, e una immensa gratitudine lo invase, quasi pietrificandolo di stupore per trovarsi ad essere colui accanto al quale e per il quale ella avrebbe speso una così santa vita, conferendo anche al marito quella bellezza sovrumana di cui sembrava godere lei sola, misteriosamente, il privilegio, e che Albert, a differenza del cinico Neville, vanitosamente, ma anche profondamente, onorava. Di nuovo, silenzioso e in preda alla più alta commozione, egli si piegò a baciare quella manina adorata.